giorno, l'orizzonte, un nuovo tramonto, lo specchio, stesso contorno, sempre un vecchio che torna un cerchio, cerca di insegnare rispetto, cosa ottiene? Nulla di fatto. Nuova scuola, storia che si ripete, che riflette la penombra, il male in bene. Chi l'ha detto che se il bene trionfa sempre? Forse nelle favole, Medio Oriente, storie fatte e rivissute. Se la storia insegna, beh pessimo lo studente, assente durante la lezione, latitante, perché all'interrogazione dà prova di non capire. Un'altra guerra, terraferma che trema, nuova trama. Ma chi guarda appare sempre la stessa solfa, la solita storia che gira e rigira, si ripete, che aria tira. Se questa è la bufera, cerco la quiete dopo la tempesta. Tira la giostra a comandarla, il potente di turno, tira giù la maschera, dio denaro, ma chi l'ha detto che è un dio pagano? Qual è il senso? Cosa rimane a chi vince? Se ha una coscienza in ogni caso perde, qual è politica? A destra, a sinistra, basta che si stia col più forte, basta dare scuse, basta trovare accuse, basta lasciare persone illuse, basta fottere più debole, magna magna, chi non magna non è rappresentato, ma quale strage di stato? Qui quel che è stato fatto è stato in stato d'arresto per lo stato, comprato da pochi, per gli altri specchi, per le allodole, le elezioni. Ma il carrozzone va avanti da sé, cade uno, se ne mette su un altro, ma non seguendo il popolo, così ovunque, tanto regna il contante. E poi storie tipo Genova, tipo Seattle, firma il patto, che secondo te li forti, ma per chi ci hai presi, fatti bello, sorridi alle telecamere, ma un movimento che cresce sta sotto, sempre più potente, sempre crescente. La storia almeno a noi insegna, almeno noi abbiamo il futuro, e te ce lo stai rovinando, stai preparando la tua vecchiaia, non pensando a chi verrà dopo, ma la tua è la fine che farà il topo. Ratto, fuga, perché ti stiamo alle costole. È tempo per fottere, ne abbiamo. Te sei il nostro obiettivo, il nostro solo nemico. Te che hai tutti per nemico, te che stringi mani d'amico e nell'altra nascondi soldi per ciò che ti sei comprato. Ricorda, per te non c'è futuro. Noi non lo vogliamo.